Blu Radio Veneto. Cantieri di carità e giustizia. Prosegue il nostro viaggio, il nostro racconto nei cantieri di carità e giustizia, aiutati in particolare in queste settimane del quaderno numero 2, diffuso poco prima di Pasqua, ma vi invitiamo a cercare anche il quaderno numero 1. Abbiamo raccontato nelle scorse puntate di quale tipo di interventi vengono erogati in città di Padova, perché di questo territorio stiamo parlando, quali sono e dove vengono erogati, ma vediamo con quali risorse appunto si cerca di far fronte alle povertà nel territorio cittadino. Innanzitutto risorse umane, quindi non soldi ma volontà, buona volontà. Le persone complessivamente coinvolte nelle 75 organizzazioni mappate sono poco più di 2.600, in media 37 per ogni ente. Nella maggior parte delle organizzazioni le persone però sono meno di 20, il 16% può contare su più di 50 persone, sono evidentemente le organizzazioni più grosse. Il 72% sono volontari, quindi 27 su 37. Secondo le indicazioni fornite, i volontari garantiscono ogni mese quasi 30.000 ore di volontariato, 16 ore al mese per ogni volontario, 4 ore a settimana, meno di un'ora al giorno se dovessimo fare una media proprio matematica. Valorizzando e traducendo, in un anno sarebbero 3 milioni e mezzo di euro se dovessimo pagare il costo orario appunto di queste persone. Per poco meno della metà delle organizzazioni volontarie appartengono prevalentemente alla fascia di età tra i 50 e i 65 anni, quindi ce n'è ancora fuori dalla pensione. Il 27% ha volontari con un'età prevalente superiore ai 65 anni, solo il 6% ha in gran parte volontari giovani, quindi con meno di 35 anni. Le risorse economiche, quindi denari per sostenere le persone povere, si fa ricorso per la maggior parte dei casi solo a risorse esterne, il 39%. Oltre un terzo delle associazioni usufruiscono sia di finanziamenti propri che di altri, il 26% utilizza solamente risorse interne. Di quelle che fanno ricorso a finanziamenti esterni, poco meno della metà attinge ad un'unica fonte esterna, il 40% a due fonti, il 12% a tre o più fonti. Quali sono le fonti esterne? Persone singole, donatori, enti pubblici o anche enti privati. E poi c'è una terza tipologia di risorse: persone, abbiamo detto, i soldi e poi le risorse in natura. 6 organizzazioni su 10 ricevono beni in natura per poter fronteggiare le situazioni di povertà, quindi parliamo di alimenti nella stragrande maggioranza dei casi e indumenti, che riguarda la metà delle associazioni. Altri beni sono mobili, carrozzine, giochi o anche farmaci, e questo dunque il panorama della situazione per quanto riguarda i cantieri di carità e giustizia. Questo fa da parallelo a quello che racconteremo la settimana prossima nella presentazione del report dell'Osservatorio sulle povertà e le risorse della Caritas di Padova. All'interno di questi cantieri non c'è solo la Caritas, abbiamo detto, sono altre 74 organizzazioni che operano in città e non tutte riferite alla diocesi o a enti religiosi. Però la settimana prossima, appunto nello spazio del martedì a quest'ora, nella rubrica Prossimo Tuo, il report della Caritas confermerà nella sostanza queste tendenze, perché si parlerà delle risorse economiche e in particolare delle bollette delle utenze, quindi luce, gas e acqua potabile. È una delle esigenze maggiori che vengono riscontrate proprio dalla Caritas. Importante però ricordare, nell'ambito dei cantieri di carità e giustizia, appunto, quali sono le risorse. Ci sono i denari, certamente, ci sono soprattutto le persone e poi anche dei beni materiali che vengono donati da persone esterne. Cantieri di carità e giustizia.